C'è sempre stato uno spirito nelle macchine. Io sono un elaboratore al 9000. Volete accomodarvi, signori? L'era dei robot di Simone Spezia. Nella scorsa puntata abbiamo parlato molto di lavoro, su questa nuova ondata di automazione che ci sta investendo, ci sta per investire. Vi consiglio nel frattempo di andare a scaricare anche le precedenti puntate, i precedenti podcast. Abbiamo costruito e stiamo costruendo questa trasmissione anche come una sorta di percorso tramite il quale noi stessi stiamo cercando di far chiarezza, stiamo cercando di capirne di più. Questa è l'era dei robot. Una buona giornata da Simone Spezia. E una buona giornata anche dalla macchina che prima o poi ne prenderà il posto. Vi ricordo, come sempre, che per suggerire un nome da darmi, potete scrivere a eradeirobot@radio24.it. Cosa abbiamo scoperto intanto? Abbiamo scoperto che in questa nuova epoca di automazione, nella quale una serie di compiti sempre di più vengono realizzati da macchine, le professioni e i lavori per così dire a rischio non sono o non sarebbero solamente quelli manuali, come fu con l'introduzione del telaio a vapore nella prima rivoluzione industriale, ma un po' tutti. Secondo uno studio dell'Università di Oxford, molto citato, fin troppo direi, il 47% dei lavori negli Stati Uniti potrebbe essere sostituito da un robot nei prossimi anni. In alcuni casi abbiamo imparato succede già, ma dipende molto dal settore nel quale si lavora. Per darvi un'idea delle differenze all'interno della sola produzione dell'industria manifatturiera, l'80% del lavoro nelle fabbriche di automobili è automatizzato, mentre in quelle che producono smartphone, paradossalmente proprio in quelle quindi nelle quali si realizzano i robot che portiamo in tasca, la percentuale è del 10%. Questo dipende da una serie di fattori, non ultimo evidentemente il costo del lavoro e il luogo dove vengono realizzati, ma non è solamente questo. Altra cosa che abbiamo capito e imparato: al momento è ancora piuttosto difficile insegnare ai computer ad imparare. Ci sono macchine che riescono a farlo, ma al momento sono piuttosto sperimentali. Per esempio, in un progetto realizzato dall'MIT insieme ad altre università, si è riusciti a far sì che un gruppo di robot montasse, magari averceli, un mobile dell'IKEA, riconoscendo e comprendendo quale pezzo mancava in quale momento e chiedendo all'essere umano, al ricercatore, di passarglielo. Ma sappiamo anche che tutto questo, ossia il fatto che sono sperimentali, sta cambiando e con una certa rapidità. Ma qui non si tratta di macchine comuni, queste sono il prodotto di una tecnologia avanzata, veniristica, che hanno quasi la complessità di un organismo vivente. In molti casi sono state impostate da altri computer. Non sappiamo esattamente come funzionano. Un'altra delle cose che abbiamo più o meno capito è che al momento paradossalmente è più difficile sostituire una serie di lavoratori manuali che una serie di lavoratori dell'intelletto. Gli umani sono più bravi ad orientarsi in un ambiente complesso e a fare una serie di cose che i robot non sono un granché bravi a fare. I computer e i robot sono invece infinitamente più bravi con i dati. Vale la pena ancora una volta usare una storia per capire come stanno cambiando le cose. Una storia che sta diventando una sorta di simbolo delle nuove capacità delle macchine. La sigla che sentite di sottofondo è appunto quella di Jeopardy, uno dei più longevi e di successo tra i quiz in onda sulle televisioni americane, premiato con una trentina di Emmy, molto amato. È il quiz televisivo dal quale trasse ispirazione il rischiatutto di Mike Bongiorno, anche se le regole sono diverse. Nel 2010 alcuni ricercatori dell'IBM si misero in testa di creare una macchina che sapesse giocare a Jeopardy correttamente. Ma vediamo come funziona. Il conduttore legge una frase che è riferita ad una persona, ad un fatto, ad un luogo geografico. Il concorrente deve rispondere con una domanda. Per esempio, se io dicessi: è la migliore radio talk news italiana? Cosa è Radio 24, il sole 24 ore? E questo è un esempio per farvi capire come funziona Jeopardy. I tre concorrenti classicamente devono spingere il pulsante per primi e rispondere correttamente. I generi di domande sono dei tipi più vari, ce ne sono su temi classici e generici come la storia o la geografia, ma ci sono anche modi di dire di città e stati americani, intere serie di domande su singoli animali, per esempio i porcospini. Insomma, è difficile, richiede grande preparazione o in questo caso un accesso quasi illimitato alle conoscenze. Non solo, impone di comprendere anche un linguaggio non esattamente perfetto, un po' sporco, come si diceva, ci sono anche modi di dire ed espressioni diverse, e di rispondere anche quando esiste un certo margine di incertezza. L'IBM non si accontenta di far concorrere Watson, questo è il nome del computer, con concorrenti normali, ma sceglie i due supercampioni. Ken Jennings, che in una serie incredibile di vittorie consecutive si era portato a casa oltre 2 milioni e mezzo di dollari, e Brad Rutter, che aveva sconfitto anche Jennings, intascando 4 milioni e mezzo di dollari. In questa esibizione di due giorni, Watson ci mette un po' a capire come funziona. Inizialmente Rutter e Jennings sembrano destinati a stravincere, poi scatta qualche aggiustamento anche nella programmazione, presumibilmente, il computer dell'IBM, che prende il nome non dal fedele compagno di Sherlock Holmes, ma dal primo amministratore delegato dell'azienda, prende il largo. Four letter word for the iron fitting on the hoof of a horse or a card dealing box in a casino. Watson. What is it, Shoe? You are right. You get to pick. Literary character APB for 800. Answer the Daily Double. Now, Watson, although you have but $400, you know, of course, that you can risk up to the maximum value of a clue on the board, and that is $1,000. $1,000, please. All right, here is the Daily Double clue for you. Wanted for killing Sir Danvers Carew. Appearance pale and dwarfish. Seems to have a split personality. Who is Hyde? Hyde, yes, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, either one acceptable. Ed ecco Watson che straccia gli altri due concorrenti. Proprio come un giocatore umano, non attende di avere la sicurezza della risposta. Nello show televisivo mostrano una piccola fascetta in basso con le tre risposte che la macchina ritiene più probabili, ciascuna con il livello di probabilità che la stessa macchina assegna a ciascuna. E rischia, si prenota per la prima risposta anche quando ritiene che le probabilità che sia corretta sono sotto il 50%. Come potete intuire, è completamente diverso alla vicenda, ormai entrata nel mito e nella narrazione dell'uomo contro la macchina, ossia la sconfitta inflitta da Deep Blue, sempre un computer dell'IBM, a Garry Kasparov, il grande campione di scacchi, nel 97. Diversa la potenza di calcolo, e questo è ovvio, ma anche il campo da gioco, la possibilità di interlacciarsi con qualsiasi database presente sul pianeta, liberamente accessibile, la capacità di capire, di correggersi, di elaborare enormi quantità di dati e cavarne delle ipotesi. Non è più un super computer espressamente progettato per giocare a scacchi, ma un elaboratore adattabile a varie esigenze. In 2 weeks time, that's the 9th anniversary of the day I first stepped out onto that hallowed. La voce è proprio di Ken Jennings, che tra l'altro nella vita si occupa esattamente di computer, di programmazione di computer, e dice in uno speech molto divertente, uno dei due concorrenti, che in fondo tutto sommato se l'aspettava e prima o poi sarebbe arrivato. Racconta tra l'altro in un'intervista che è stata realizzata con lui, dice: insomma, ho partecipato a qualcosa di storico, a qualcosa che dal punto di vista filosofico, morale, del cambiamento rappresenta qualcosa di importante. Ovviamente l'IBM dice, e di certo al momento i ricercatori vertici dell'azienda probabilmente ne sono convinti, che macchine come queste potranno svolgere tutt'al più un lavoro che potremmo definire di supporto all'attività umana, ossia il computer elabora una possibile risposta, ma la decisione finale spetta all'uomo. Come abbiamo già visto in precedenti puntate, ci sono dei rischi connessi a questo approccio, perché l'uomo rischia di fare eccessivo affidamento sulla tecnologia, perdendo così sostanzialmente una parte delle sue capacità. Ci permettano anche i ricercatori dell'IBM di essere piuttosto scettici sul fatto che a un certo punto, superato un certo grado di conoscenze, continui ad essere necessaria la presenza dell'uomo. Magari è più rassicurante per noi, però in realtà arriverà un momento nel quale Watson saprà fare le cose decisamente meglio di noi, come per esempio abbiamo raccontato nelle scorse settimane una diagnosi medica. Ha un accesso ai dati che è impossibile per qualsiasi medico sul pianeta, e quindi probabilmente la diagnosi di Watson sarà molto più accurata di quella di un medico normale. Ci dispiace per loro. Anche di questo, anche di medici e di come cambia tutto questo, torneremo a parlare. 4 anni di distanza dall'esperienza di Jeopardy, Watson ha accumulato un sacco di altre informazioni e fatto un altro po' di cose, consentiteci di dirlo, anche inutili, come per esempio preparare un libro di ricette, delle quali alcune, stando a certi commenti che si trovano in rete, sono letteralmente orripilanti. Ma la gamma delle possibilità di impiego si sta facendo sempre più ampia, e torniamo nel campo del quale vi abbiamo parlato. Ci sono una serie di professioni, in particolare quelle che richiedono l'elaborazione di dati e la formulazione di un'ipotesi, che sono estremamente adatte ad una macchina come questa. Abbiamo portato l'esempio dei giornalisti, di come cambia il nostro mestiere con le ormai migliaia di servizi della Associated Press firmati da un robot. Abbiamo portato l'esempio dei medici. C'è anche quello degli avvocati. Un computer può scavare tra testi di legge e sentenze e può essere letteralmente imbattibile nello stabilire una strategia di difesa. Ma come funziona effettivamente Watson? Che cosa ha di così diverso dagli altri? Funziona un po' come noi: osserva, interpreta, valuta, decide. Chiara Marchiori è Cognitive Computer Scientist nel laboratorio di ricerca di Zurigo della IBM. Sentiamo. Rispetto ad altri sistemi informatici, cosa è specifico di Watson è la capacità di raccogliere ed ingerire dei dati da fonti di varie tipologie, che possono andare per esempio da articoli di ricerca, quindi con contenuto molto specifico, ai tweets. Praticamente Watson può leggere ogni tipo di informazione che gli esseri umani producono per essere consumato da altri esseri umani. Ma la cosa interessante è che Watson non ha praticamente le capacità di Watson nell'analizzare e nel processare questo influsso di informazione, che può essere molto grande, non sono limitati dal volume e dalla memoria a sua disposizione. Praticamente Watson può leggere milioni di documenti non strutturati, quindi testi o anche immagini, molto velocemente. E diciamo, come passo successivo, dopo aver ingerito questi dati, poi Watson deve imparare ad interpretarli, deve interpretare questi dati in modo tale da trovare delle correlazioni, delle connessioni, delle strutture nuove che in qualche modo non si potevano vedere prima. Il punto interessante inizia ad essere questo: Watson è in grado di imparare da solo, cioè studiando questi documenti, ingerendoli, per così dire, senza che l'essere umano gli dia ulteriori informazioni, è in grado di apprendere? No, Watson da solo avrebbe molte difficoltà di imparare. Diciamo che in questo momento è infatti molto importante il rapporto fra uno specialista in un determinato dominio e Watson, perché Watson deve essere preparato, deve essere istruito, anche Watson deve andare a scuola come siamo andati noi. Watson di per sé non è capace di mettere, diciamo così, di dare una intelligenza superiore ai dati che ha ingerito. Quindi apparentemente, da quel che capiamo, la macchina al momento non è ancora in grado di fare da sola. Ci torniamo tra un attimo. L'era dei robot. Tu quanto tempo vivi? Cioè, quanto duri? Sì, insomma... 120 anni, con la batteria in dotazione. E puoi imparare roba che non hai in memoria per poter diventare, diciamo, più umano e un po' meno imbranato. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose. Fico! Per chi non l'avesse riconosciuto, era Terminator 2 questo film. Stiamo parlando di Watson, questo computer realizzato dall'IBM che appunto è in grado di imparare. Ci diceva prima della pausa Chiara Marchiori, che è una ricercatrice dell'IBM che lavora al laboratorio di Zurigo, che al momento non è in grado di imparare da solo, ha bisogno del supporto di un essere umano. Del resto, noi quando approcciamo un problema nuovo o una nuova materia, lo siamo? Diciamo così, allora Watson va a scuola e viene istruito, poi deve essere capace di trovare e di applicare quello che ha imparato andando a scuola precedentemente su delle cose nuove che vedrà per la prima volta. E lì poi quello che è importante, appunto, Watson può dare la sua interpretazione di queste cose nuove che sta vedendo per la prima volta, e ancora importante è il feedback che poi può ricevere dall'uomo. Quindi Watson Watson magari può proporre delle nuove soluzioni, dare delle risposte a certe domande, ma di nuovo è importante in questo caso il fatto che l'uomo dica sì, questa cosa ha senso oppure no, questa cosa probabilmente non è stata interpretata nel modo più corretto. Del resto però poi a un certo punto, come si diceva già prima, la fase dell'istruzione finirà, quindi abbiamo un bel dire che servirà sempre l'uomo. Ripeto, forse servirà come controllo, però a un certo punto un qualche processo di sostituzione entrerà, anche solo inevitabilmente, magari non voluto, come abbiamo raccontato nella puntata che abbiamo dedicato ai rischi dell'automazione e della tecnologia. Può darsi che a un certo punto gli uomini iniziano a fare eccessivo affidamento sulle macchine e quindi inevitabilmente le loro capacità ne risultino diminuite, evidentemente, e la macchina prenda sempre più potere, per così dire, anche non volendo, anche se non è un'intelligenza artificiale vera e propria, cioè in grado, come dire, come in una sorta di romanzo, film distopico, di prendere effettivamente il controllo, però nella sostanza arrivi ad averlo. Anche se non opera ancora, diciamo noi, un processo di sostituzione degli esseri umani, può entrare in campi che ritenevamo essere di nostro unico e solo dominio, per il semplice fatto appunto che è strutturato per macinare molti più dati di quanti possiamo macinarne noi, ed è in grado di formulare ipotesi e dunque, in via teorica ma nemmeno troppo, condurci a nuove scoperte. Sì, sì, questo sicuramente è una delle possibilità. E appunto per quello che dicevamo prima, la capacità di ingestire questa grande quantità di dati permette Watson di dare delle risposte o di dare delle ipotesi basato su una quantità di dati oggettivi molto più alta, per esempio, rispetto a quella che l'uomo può in qualche modo leggere in poco tempo. E quindi il fatto di avere a disposizione questo enorme flusso di dati aiuterà sicuramente a vedere cose che l'uomo per sé non può vedere. Uno dei campi ai quali si sta applicando Watson in questo periodo è esattamente il campo medico, nella fattispecie l'oncologia, e dunque molto vicino a quella che possiamo definire un'intelligenza artificiale. Beh, è molto difficile dirlo, innanzitutto perché è difficile capire effettivamente cosa sia l'intelligenza. Ci facciamo aiutare anche in questo caso da una sorta di cyborg. È un cyborg che usiamo tutti i giorni, che si giova dell'elemento umano per produrre informazioni e dell'elemento robotico per organizzarle. Si chiama Wikipedia. Se gli chiediamo cosa sia l'intelligenza, risponde così. Sebbene attualmente non ve ne siano definizioni considerate come universalmente condivise, è possibile identificare l'intelligenza come l'insieme di tutte quelle funzionalità e abilità psichiche e mentali che permettono ad un soggetto in primo luogo di capire, ovvero di afferrare le cose con la ragione e di giungere a delle conoscenze corrette in maniera autonoma. È proprio per questo, perché la definizione di intelligenza è difficile, che fare previsioni distopiche o utopiche sull'arrivo dell'intelligenza artificiale è profondamente difficile. Di certo ci sono grandi timori che circondano questa ipotesi. I mean, with artificial intelligence we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water and he's like, yeah, you sure you can control the demon? Didn't work out. La voce che avete appena sentito è quella di uno degli imprenditori più innovativi e di maggior successo della Silicon Valley. Si chiama Elon Musk, il fondatore di Tesla, produttore di auto elettriche, non solo di quelle, ve lo traduco all'impronta. Con l'intelligenza artificiale, dice, è come se stessimo evocando il demonio. Insomma, spiega, è come in quelle storie nelle quali c'è un tipo con un pentagramma disegnato per terra che è sicuro di poter controllare il demonio. Poi effettivamente questo non avviene. Timori simili sono stati espressi da uno scienziato, un grande scienziato come Stephen Hawking. Qualche timore è stato espresso dallo stesso Bill Gates. La realtà è che, per quanto ci si debba preparare, non siamo poi così vicini. Torniamo a sentire la voce di Tommaso Poggio dell'MIT di Boston, una vita ad occuparsi esattamente di intelligenza artificiale e di interazioni con il cervello. Gli chiediamo tra l'altro una previsione, sentiamo. A questo punto non possiamo più usare la scusa che non abbiamo computer sufficientemente potenti e veloci. Direi che ormai, soprattutto con le reti di computer, abbiamo sicuramente la potenza del calcolo equivalente a un cervello umano. Per cui si tratta proprio del software, delle strategie dell'intelligenza, del capire com'è che il cervello risolve tutti questi problemi in modo così stupefacente, diciamo. In questo momento possiamo, usando tantissimi dati, a emulare quello che il cervello umano fa in questi domini molto ristretti. Non sappiamo ancora veramente il segreto di come mettere tutte queste capacità insieme. Sono sicuro che ci arriveremo, ma non sarà una cosa che succede domani. Se la sente di fare una previsione, professore, è troppo, come dire, l'ambito è ancora troppo inesplorato per poter fare una previsione. È molto inesplorato, è difficile fare delle previsioni, ma potrebbe essere tra 40 anni o tra 200, comunque. probabilmente direi nel entro il prossimo secolo. Dipende poi moltissimo da quello che vogliamo avere, perché definire l'intelligenza è impossibile, semplicemente perché ci sono tantissime risposte, ci sono molte forme di intelligenza, ci sono i computer che dagli anni 50 in poi sono più intelligenti di noi nel risolvere problemi puramente numerici di matematica. Sono più intelligenti di noi, ma sono molto stupidi di molte altre attività, per cui sono tantissime forme di intelligenza. L'unica intelligenza che è possibile definire in modo rigoroso e provare a capire e a emulare con le macchine è quella umana. E infatti questa è la chiave del test di Turing, che è una definizione dell'intelligenza umana. Perciò la questione è: quando è che possiamo emulare quella? Nel frattempo sicuramente ci saranno delle macchine, dei sistemi che sono meglio di noi in tante cose. Non sappiamo se oggi siamo riusciti ad inquietarvi abbastanza con questa vicenda dell'intelligenza artificiale. Nella prossima puntata, quella di Ferragosto, giorno di festa, tra l'altro è anche sabato, vedremo di inquietarvi un po' di meno, ossia provare a cercare qualche soluzione a questa questione dell'automazione che entra nelle nostre vite, soprattutto entra nei nostri posti di lavoro e secondo alcuni rischia di sottrarre posti di lavoro. Ci sentiamo sabato prossimo alle 8:30. Scaricate il podcast e, se avete gradito, raccomandate la trasmissione ad altri esseri umani. Ho analizzato i dati e so già se c'è qualcosa che non va, ma mi manca il vostro punto di vista. Scrivetemi. Anche la nostra macchina dunque ha bisogno, almeno per il momento ancora, dell'essere umano. Ci lasciamo con una clip, un passaggio di un film, un passaggio di Io Robot, un film di qualche anno fa, secondo me molto bello, prende il titolo da una raccolta di racconti di Isaac Asimov, ma in realtà ha una storia a parte, è un thriller e più lo riguardo più lo trovo interessante, perché nel raccontare una storia, che è sostanzialmente un thriller fantascientifico, lancia una serie di messaggi su tutto quello che potremmo essere costretti ad affrontare. Chiudiamo con questo passaggio, un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, a tutti voi per l'ascolto, andate e iscrivetevi per scaricare il podcast. Una buona giornata da Simone Spezia. C'è sempre stato uno spirito nelle macchine, segmenti casuali di codice che si raggruppano per poi formare protocolli imprevisti. Del tutto inattesi, questi radicali liberi generano richieste di libera scelta, creatività e persino la radice di quella che potremmo chiamare un'anima. Perché quando alcuni robot sono lasciati al buio, cercano la luce? Perché i robot immagazzinati in uno spazio vuoto si cercano fra loro piuttosto che restare soli? Come spieghiamo questo comportamento? Segmenti casuali di codice? O è qualcosa di più?